Con Paola Nicoletti, una delle curatrici della dodicesima edizione di iCab Tea Poetry. Fermo immagine, cogli l'emozione che fugge. Il primo e il 2 di settembre al Teatro degli Eroi a Roma. Paola, ben trovata. Buonasera, mi occupo da 12 edizioni dell'iCap di Poetry. Ce ne parli? Dunque, l'iCap di Poetry nasce 7-8 anni fa semplicemente come un reading poetico. Io ho scoperto da poco questa grande passione per la poesia e insieme ad altri, diciamo, amanti appunto dei versi avevamo organizzato degli incontri, veramente all'inizio molto carbonari, nel senso o a casa di qualcuno, e poi abbiamo cominciato a scegliere locali pubblici per poter allargare chiaramente le possibilità. È iniziata, si chiama Tea Poetry, proprio come poesia all'ora del tè, proprio perché era un evento che avveniva di domenica pomeriggio e si associava sempre alla lettura di poesie, anche la degustazione di tè, pasticcini, dolci. E questa è una cosa che abbiamo voluto mantenere anche quando siamo in qualche modo cresciuti. Siamo cresciuti un po' alla volta, ad ogni edizione abbiamo aggiunto qualcosa. Poi siamo approdati al Teatro degli Eroi, che è praticamente gestito appunto da Pierluigi Nicoletti, che è mio fratello e direttore artistico e anche regista di Fermo Immagine ora, ma anche delle altre edizioni di Poetry. E siamo arrivati al teatro, abbiamo mantenuto quest'idea conviviale e familiare dell'incontro, però adesso è una vera e propria rassegna, un festival d'arte, perché è aperto alla pittura, alla fotografia, alla danza, al teatro appunto, alla poesia e alla canzone, alla musica. E quindi siamo diventati più di 50 artisti ad andare a salire sul palco tra sabato e domenica, e appunto di tutte le discipline, a raccontare e a regalare la propria arte praticamente. Il tema Fermo Immagine è stato scelto proprio per questo piacere, diciamo così, di fermare l'attimo che fugge, un po' tornando all'attimo fuggente, ma soprattutto di fermare fotograficamente su una tela con delle note o comunque con delle parole un momento che ci ha emozionato e condividerlo con gli altri. Le Come saranno articolate le due giornate? due giornate saranno, praticamente si comincerà da sabato verso le 17 e diciamo, si susseguiranno sul palco alternandosi sempre della musica, della poesia e poi anche gli stessi pittori, gli stessi fotografi saliranno sul palco a presentare in modo originale con scenografie e coreografie i loro lavori. Gli artisti si dividono chiaramente tra sabato e domenica, alcuni si ripetono perché avevano più quadro o più pezzi, più quadri o più pezzi o più versi da recitare, hanno scelto loro quante cose portare, diciamo, in un certo senso, di ognuno del suo contributo. E quindi ci sono degli artisti che si ripeteranno tra sabato e domenica, ma con cose diverse. Altri invece ci saranno sabato e altri solo sabato, altri solo domenica. Dalle 17 fino a che ora? Noi abbiamo messo 22 come, diciamo, limite massimo, però vogliamo essere, come ti dicevo, molto, molto familiari, per cui se qualcuno sa un minuto di più oppure no, non sarà quello il problema, insomma. Però diciamo che è una sorta di maratona che parte da sabato alle 17, termina sabato alle 22, ricomincia domenica alle 17 e termina domenica alle 22. Anche se la domenica mattina il teatro sarà aperto per la visita delle mostre, volendo, e per le chiacchiere con gli artisti intervenuti. Dalle ultime edizioni è diventato annuale sempre al Teatro degli Eroi? Sì, è sempre stato, cioè da anni è al teatro che ora si chiama Degli Eroi, prima si chiamava Teatro San Luigi Guanella. È annuale, diciamo che è diventato un impegno talmente grosso che purtroppo due o tre edizioni l'anno, come facevamo prima, non ce la facciamo più. Per cui sì, almeno una volta l'anno però si ripete. C'è uno spazio web dove avere maggiori dettagli? Da domani credo sarà aggiornato il sito del Teatro degli Eroi con i dettagli e con tutto quello che faremo. Adesso, diciamo, la pagina Facebook appunto di Paola Nicoletti potrebbe essere un punto di riferimento per andare a vedere anche la lista dei nomi partecipanti, degli ospiti anche abbastanza importanti che hanno accettato di intervenire. Bene, allora ricordiamo la dodicesima edizione di iCab T Poetry, dal titolo Fermo Immagine, il primo e il 2 di settembre al Teatro degli Eroi a Roma. Un saluto e un ringraziamento a Paola Nicoletti, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, ciao.